Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Gastone Bertozzini. Le carte vincenti che la pentola TVS gioca da più di 40 anni. Diana Marino. Con il cibo, come a tutti, mi piace la cucina italiana in modo particolare, ma se devo unire lo strumento di cottura con il cibo, non sono un bravo chef, un bravo cuoco, ecco. In cucina non passo proprio, non dedico niente alla cucina, quindi. In azienda abbiamo un laboratorio, abbiamo una cucina dove vengono fatte, espletate tutte le prove sui nostri prodotti. Con la cucina, a parte l'amore per i gusti e i sapori nostrani, Gastone Bertozzini ha un rapporto soprattutto professionale e imprenditoriale, come lo ha con il cuore della produzione della sua azienda di famiglia, la TVS, una regina in cucina, che produce pentole, padelle, bistecchiere, wok e casseruole antiaderenti. Seconda in Europa e leader a livello internazionale nella produzione di strumenti di cottura in alluminio rivestiti in materiale antiaderente, TVS è stata fondata nel 1968 a Fermignano, nei pressi di Urbino, nelle Marche. Ma prima di arrivare non solo a questi traguardi, ma anche alla stessa nascita dell'azienda, Gastone Bertozzini e i suoi predecessori hanno percorso una lunga strada imprenditoriale, costellata di diverse attività ed esperienze, pronti a scommettere sul nuovo. In termini generazionali io sono un imprenditore di terza generazione. Nonno paterno era un capomastro, tengo a precisare che mio nonno è nato nel 1866, quindi pochi anni dopo l'unità d'Italia. Mio padre, che era il più piccolo di 7 figli, continuò l'attività del nonno, tanto che nel immediato dopoguerra, ovviamente mi riferisco all'ultima guerra, divenne uno dei noti imprenditori del territorio pesarese. Se io sono un imprenditore di terza generazione, è altrettanto vero che sono di prima per quanto riguarda l'attività manufatturiera. Dopo oltre 40 anni di storia, il valore di un'azienda si misura nella sua capacità di rinnovarsi e stare al passo con i tempi, ma soprattutto nasce e cresce con l'istinto imprenditoriale che si tramanda di padre in figlio. Mio nonno certamente si iscrisse, allora non esisteva la Camera di Commercio, ma esisteva un albo chiamato di Arte e Mestieri, si iscrisse a questo albo nel 1925, quindi di vecchia generazione. Il nonno materno invece era un coltivatore diretto, quindi erano degli imprenditori a loro modo, ecco, quindi è stato forse un fatto di DNA fra padre e figlio, perché per mio padre, che aveva la terza elementare, quindi dovrei dire che questo, in questo caso lo sottolineo come merito, partecipò alle attività del padre all'età di 13 anni. E dopodiché, ovviamente, evidentemente aveva nel DNA lo spirito imprenditoriale. Continuò a fare questa attività, ovviamente con sacrifici, perché tutti hanno fatto sacrifici, chi non poteva godere di capitale alle spalle. Io sto parlando del dopoguerra, quindi quando l'Italia si stava risorgendo e che quindi l'edilizia ha avuto un grandissimo sviluppo, come altri settori tra l'altro abbinati all'edilizia, e la storia poi della provincia di Pesaro Urbino dell'immediato dopoguerra. Nata nel 1968 nei pressi di Urbino, TVS già nel 1974 diventa licenziataria DuPont, il leader mondiale nella produzione dei rivestimenti antiaderenti a marchio Teflon. Ma Gastone Bertozzini ricorda gli inizi dell'azienda come gli inizi di una nuova sfida impegnativa nella sua vita. Io ho studiato con fatica, nel senso che non ero uno studente modello. Mi sono iscritto all'università, che poi non ho portato a termine. Sono partito per il militare, l'ho fatto come ufficiale, quindi l'ho fatto in ritardo, sempre per ragioni universitarie. Durante questo periodo è stato un periodo bellissimo, perché mi sono guadagnato il primo stipendio da ufficiale, quindi non dipendevo da mio padre. Quando sono tornato a casa, mi sono inserito nell'attività di mio padre, cioè l'edilizia. Mio padre acquisì una quota di una piccola azienda apparentemente industriale ma di fatto artigianale che fabbricava pentole e appunto pentole antiaderenti. E mio padre, da padre padrone, mi impose di andare a seguire l'attività di questa azienda. È stata una fatica enorme perché mio padre aveva certamente investito dei soldi e ho sentito proprio il bisogno di dimostrare che quello che avevo investito avesse un senso. L'alto contenuto qualitativo e il design d'avanguardia sono gli elementi che contraddistinguono i prodotti TVS sul mercato, che vengono realizzati per intero in Italia, negli stabilimenti dell'azienda e distribuiti in tutto il mondo. Durante gli anni Ottanta, TVS raggiunge uno degli standard tecnologici più evoluti fra le aziende italiane del settore, anche a livello internazionale. Ecco come ha fatto TVS a essere sempre un passo avanti. Quando mio padre mi impose di andare a, non a dirigere, attenzione, andare a lavorare in questa nuova attività dove io non sapevo, e ripeto, niente, mi sono dovuto affiancare ai due soci di mio padre, quali erano molto più anziani del sottoscritto, non avevano figli. Uno dei soci non mi ha trasmesso nulla, un altro, seppure non ho mai condiviso l'etica, devo dire che mi ha insegnato molto, perché aveva esperienze commerciali, in particolar modo all'esportazione, tanto che in 40 anni di attività TVS ha sempre esportato l'80% del suo prodotto. Questa spinta in avanti e verso l'estero vuole dire ora come allora viaggiare, e Gastone Bertozzini ha ricordi come pagine di libro. Stati Uniti e Giappone. Giappone 80, abbiamo cominciato a lavorare negli anni 80. È stata un'esperienza affascinante, perché è un mondo completamente diverso dal nostro, in termini di educazione. Mi ha entusiasmato come paese. Non ci vivrei, vivo bene in Italia e non cambierei il sistema italiano con altri paesi. Però è stata un'esperienza bellissima, un modo di lavorare veloce, immediato, l'importante è la correttezza nel rapporto, e sono stato premiato sotto questo aspetto. Nel corso degli anni 90, TVS intuisce che le esigenze del mercato stanno cambiando e decide di affiancare all'incessante ricerca tecnologica uno studio stilistico per i suoi progetti, con collaborazioni con designers di fama internazionale, il designer Takide Sano, con Matteo Thun, architetto e designer conosciuto in tutto il mondo, con Giugiaro Design di Torino. Collaborazioni rinnovate nel tempo e allargate anche a designers emergenti. Gastone Bertozzini spiega la filosofia che sta dietro una banalissima pentola, come la chiama lui, e le 5 carte che si giocano per vincere anche la partita della crisi, con un prodotto che ha imparato nel tempo ad amare e a far amare al mondo. Molte volte si considera una pentola un oggetto banale. Di fatto non lo è, tanto che ai miei collaboratori, in particolar modo i responsabili di area internazionali, invito sempre a far visitare la fabbrica ai propri clienti, perché solo visitando la fabbrica, la produzione, si rendono conto che cosa c'è dietro una semplice e banalissima pentola. TVS ha adottato lo standard SA8000, la prima certificazione internazionale che misura il grado etico e la responsabilità di un'impresa, definendo i requisiti per un comportamento eticamente corretto delle imprese e delle filiere di produzione verso i lavoratori e gli stakeholders. L'albero della responsabilità sociale deve crescere nel cortile dell'azienda, secondo Gastone Bertozzini, in modo naturale. Deve crescere nel cortile dell'azienda, ma deve essere capace di coinvolgere tutti, perché non può essere una cosa unilaterale. Deve far parte della vita aziendale e coinvolgere tutti. Siamo certificati SA8000, ma brutalmente, insomma, noi abbiamo un rapporto con le maestranze che assolutamente è di primo ordine. In 40 anni non abbiamo mai avuto conflitti di lavoro, se non quelli ufficiali. Da sottolineare anche la sensibilità della proprietà di TVS, la famiglia Bertozzini, verso gli ambiti della cultura e dell'arte, con sponsorizzazioni di eventi culturali, quali Utopia del Gusto e Assaporare il Tempo, presso il Museo della Città di Urbino, con Arte in Padella, curato da Ludovico Pratesi, opere d'arte eseguite da chef e artisti di fama internazionale. Su tutti spiccano i nomi di Pistoletto e Paladino, sulle padelle TVS. Da ultimo un nuovo brand, un nuovo motto. L'ispirazione è ovunque. E intanto l'immagine di TWS viene associata per la prima volta nella sua storia a un testimonial d'eccezione quale Carlo Cracco, chef pluristellato Michelin, che sarà legato all'azienda marchigiana per almeno 2 anni. Viene siglata una prestigiosa collaborazione con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, una passione per la cultura di TWS che parte da lontano e va lontano, come sottolinea Gastone Bertozzini. Arte? Io sono stato presidente di Confindustria Pesaro Urbino della provincia dal 94 al 99. Proprio in quell'anno io sono stato il primo a firmare un protocollo d'intesa con il Ministero della Cultura, allora era ministro Paolucci. Era un accordo che prevedeva il recupero di opere d'arte da parte dei privati o da parte degli industriali del territorio nazionale. È stato il primo protocollo sottoscritto ed è stato anche adottato da Confindustria Nazionale. Al termine del mio mandato io ho fondato il Comitato Cultura nell'ambito della provincia di Pesaro. Il recupero di opere d'arte del territorio, e ne abbiamo fatte diverse, cioè interventi. Non è stato un protocollo firmato fra il sottoscritto e la sovrintendenza poi messo in un cassetto. È un invito forse ai giovani: quando si vuole si può. Il carattere serio e forte dei familiari è da sempre fortemente radicato e influenzato dal territorio marchigiano. Evidentemente i marchigiani sono speciali, sono i più longevi credo nel territorio nazionale. Io ricordo un aneddoto sotto questo aspetto. C'era un grandissimo direttore di banca che era già illuminato in quanto investiva, pur essendo a capo di una banca pubblica, investiva sui progetti. Io sto parlando di 40 anni fa o 50 anni fa. Investiva sui progetti e sulle persone, cosa che non in Italia non si è mai verificato, tanto più adesso non si verifica. Si è sviluppato il mobile, la prima parte, tutti ex operai o artigiani che hanno saputo veramente dare una grande valenza al territorio. Dietro il mobile sono nate molte industrie delle macchine del legno. Quindi è stata un'attività che di fatto ci ha imparentati con il Veneto in termini di capacità imprenditoriale. Vero è che parliamo sempre di microimprese, che spesse volte sono la linfa vitale di un territorio, perché la piccola impresa, a differenza della grande impresa, deve saper vivere da sola, perché se non è capace muore, quindi non dà, è ovviamente è quello che rappresentano veramente la spina dorsale del nostro paese. Allora c'erano molte difficoltà, ma secondo Gastone Bertozzini adesso la crisi economica è peggiore e il mercato ne risente. Se poi parliamo di edilizia, dove noi ancora siamo coinvolti, certamente i tempi sono fortemente cambiati, in peggio. Io ricordo, ero proprio ragazzino, ricordo che moltissimi dipendenti di mio padre, operai, hanno avuto sempre la possibilità, parlo sempre degli anni 60, di acquistare un lotticino di terra, poi facendosi aiutare dagli amici, il sabato e la domenica portavano avanti la loro casa e con saggezza, insomma. E oggi tutto questo non è più possibile, lo vediamo sotto gli occhi, insomma. Il mazzo di carte di TWS. Correttezza, qualità, affidabilità del servizio, qualità tecnologica e design vincono la partita anche in tempo di crisi. La crisi è indubbiamente una brutta cosa, esiste. La nostra capacità di resistenza è data dagli aspetti che ho detto prima, innanzitutto avere la capacità di servizio, che è una cosa estremamente importante, tanto più nei momenti difficili. Noi abbiamo un mercato, seppure private label, se si vuole, in Svizzera, con una vendite superiori a 10 milioni di euro all'anno. Il fatto è che se questi signori chiamano il 14 di agosto, e in Italia ovviamente tutto è fermo in agosto, e ci chiedono della merce perché hanno esaurito i loro magazzini, non hanno scorte, Io faccio aprire la fabbrica il 14 di agosto, faccio caricare il mezzo e il 16 di agosto questo cliente ha 100.000 euro di merce in magazzino. E questo è certamente un fatto che ci viene riconosciuto, ma non solo dagli svizzeri, ma ci viene riconosciuto da molti mercati. Tenga conto che noi siamo presenti in oltre 50 mercati. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.